benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Transizione di Fase. Indie Radio, lo ricordo, è un programma curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. In questo numero ci occuperemo in primo luogo di quello che sta accadendo in Italia a questo Toto Berlusconi, ma soprattutto cercheremo di analizzare le cause e i motivi che stanno dietro questi voti di fiducia e soprattutto che cosa contiene questo maxi emendamento e chi vuole che questo venga approvato. Poi continueremo a parlare ancora di capitalismo, illustrandovi quello che è un film, un docufilm di Michael Moore, a nostro avviso abbastanza interessante. Parleremo poi di quello che stanno facendo gli studenti, delle varie mobilitazioni presenti un po' in tutta Europa, con particolare riferimento comunque ad una visione locale. E infine vi ricordiamo l'appuntamento del 12 a Crotone, un appuntamento previsto dalla rete di difesa del territorio Franco Nisticò e che vedrà la collaborazione del Media Center allestito da Transizione di Fase e da Indie Media Calabria. Quindi l'appuntamento è per sabato 12, ascoltate in diretta le notizie su Radio Transizione di Fase e partecipate alla manifestazione del 12 a Crotone per dire basta al commissariamento per l'emergenza rifiuti in Calabria. Buon ascolto su Transizione di Fase. Media nazionali e internazionali si sta discutendo molto ultimamente delle forze del governo italiano e quindi della sua economia. Si dicono tante cose, si dice che su Berlusconi non c'è più la fiducia e quindi per questo motivo i mercati crollano. Però ci sono tanti elementi significativi e interessanti che tentiamo a individuare nei giornali e nelle televisioni. Infatti leggiamo invece su Indie Media Italia, su Newswire, alcune importanti delucidazioni. Per esempio ci viene ricordato chi sono Papademos, questo nuovo primo ministro della Grecia, e Mario Monti, che viene spesso indicato come un possibile nuovo premier di questo probabile governo tecnico. Ebbene, queste persone in realtà non rappresentano alcuna volontà politica, ma rappresentano nemmeno un semplice ausilio tecnico, bensì rappresentano gli interessi delle grandi finanze, delle grandi banche. Quindi fondamentalmente avere questi personaggi come guida di un governo significa che le grandi corporazioni finanziarie hanno finalmente effettuato un lavoro che perseguono da tempo, ovvero aboliamo la politica, aboliamo anche l'idea di rappresentanza e mettiamo al governo semplicemente i nostri uomini. E questo è quello che è accaduto in Grecia e che appunto potrebbe accadere anche in Italia. E questa cosa significa che veramente siamo arrivati forse a un punto di non ritorno se non alziamo la testa e se non diciamo basta e se non ci riprendiamo quella rappresentatività che abbiamo e avevamo attribuito, o avevano attribuito perché ha votato, ad alcuni personaggi che comunque stentano a fare, diciamo così, il loro dovere. E infatti sempre su Newswriting Media Italia leggiamo invece una interessante considerazione contenuta nell'articolo che ha come titolo "Era un piano tacitamente stabilito". Infatti qui si ricostruiscono le vicende dell'8 e del 9 novembre, i giorni nei quali appunto c'è stato questo maremoto che ha investito il governo Berlusconi. Infatti, come prima cosa, questo articolo fa notare come vi siano stati l'8 novembre 308 voti favorevoli e 321 astenuti, e teniamo conto che non si tratta di voti contrari bensì di astenuti, e vediamo poi qual è l'importanza di questo dato. Infatti immediatamente dopo questo dato si parla subito di dimissioni di Berlusconi. I media dopo alcuni minuti diffondono questa notizia: Berlusconi si dimette, Berlusconi non ha più la maggioranza. Ebbene, in realtà Berlusconi ha 308 voti favorevoli e non ha voti contrari, quindi tecnicamente avrebbe ancora la maggioranza. Però vediamo come, oltre a tutto ciò, si comincia ad avere una idea abbastanza nebulosa di quelli che sono i contenuti di questo maxi emendamento. Infatti, sempre l'8 novembre, un esponente dell'IDV, Lanutti, parla di articolo 18, che sarebbe di rivisitazione dell'articolo 18, l'articolo cioè che regolamenta la voglia di licenziare da parte delle industrie e quindi questo articolo 18, la rivisitazione dell'articolo 18 sarebbe contenuta in questo maxi emendamento. Invece il giorno dopo Bersani dice pubblicamente che non si è mai parlato di articolo 18 all'interno del maxi emendamento, e lo stesso pare abbia fatto Tremonti per bocca del suo solerte sottosegretario Antonio Gentile. Infatti dice che Tremonti non ha mai parlato di articolo 18 contenuto all'interno del maxi emendamento, però l'articolo di Indymedia Italia ci fa notare come effettivamente tra non parlare e non essere presente c'è una certa differenza. E quindi non si capisce effettivamente se questo articolo 18 è presente, se la revisitazione dell'articolo 18 è presente o meno in questo maxi emendamento. E lo stesso vale per la privatizzazione dei servizi pubblici locali. E ancora una volta non si capisce bene come sia possibile parlare di questa privatizzazione appunto contenuta invece nel maxi emendamento, e come sia possibile conciliare questo con i risultati degli ultimi referendum che appunto sancivano la volontà del popolo italiano che non vuole che siano privatizzati i servizi pubblici come per esempio la distribuzione delle acque. E tuttavia il parere del popolo, che sarebbe teoricamente sovrano, viene totalmente cancellato con un maxi emendamento. Ebbene, tutto quello che sta succedendo ci fa riflettere. Come mai ci sono stati questi astenuti 321 e non ci sono stati i voti contrari di 321 persone? In questo modo è ovvio che alcuni interessi vengono salvaguardati, viene salvaguardato cioè l'interesse di chi vuole privatizzare i servizi pubblici e di chi vuole modificare l'articolo 18. Ebbene, chi è che vuole questo? È possibile che anche chi è stato lì a manifestare la propria astensione anziché il proprio voto contrario, forse a questa volontà Infatti in questo modo che cosa succede? Succede che a modificare l'articolo 18 e a rendere privati i servizi pubblici è questo vecchio governo che ormai pare sia giunto alla fine. E quindi non sarà più il governo che verrà, magari un governo guidato dal PD o da non sappiamo chi, ma sarà appunto questo vecchio governo sul quale ricadranno queste scelte gravose, impopolari e certamente anticostituzionali e che vanno contro proprio il parere del popolo sovrano, tra virgolette, ormai possiamo dirlo. E quindi vediamo come invece di votare subito in maniera contraria al governo Berlusconi ci si è astenuti e quindi il governo Berlusconi come ultimi atti della sua vita ingloriosa ha proprio questi due elementi, la modifica dell'articolo 18 e la pubblicizzazione e la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Tuttavia, il colpevole, dobbiamo ricordarlo e dovremo ricordarlo anche in futuro, non è certamente soltanto il governo Berlusconi, ma un po' tutte le persone che si trovano all'interno del Parlamento e che invece di lottare contro questi provvedimenti si astengono. Dante li avrebbe definiti come, in un certo modo, insomma, come ignavi, ma noi preferiamo pensare che forse siano conniventi. Durante la guerra pochi afroamericani riempirono l'Europa di bambini neri. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni di dominio militare un'armata di africani in Italia meridionale? Un'armata di africani in Italia meridionale. Il diario vi ricorda che il 12 novembre prossimo, quindi domani, per chi sta ascoltando la trasmissione venerdì, si terrà a Crotone una grande manifestazione organizzata dalla Rete Difesa del Territorio Franco Nistico per dire basta al commissariamento della emergenza rifiuti. Più volte Indi Radio e Indi Media Calabria vi hanno informato su questo, sull'organizzazione, cioè di questa manifestazione e soprattutto sui suoi contenuti. Infatti è da moltissimi anni che si ha in Calabria un commissario che dovrebbe appunto risolvere una cosiddetta emergenza, quella cioè della gestione dei rifiuti. Tuttavia tutto ciò rimane sempre emergenza, ma non si trova mai una strada, una soluzione. Ricordiamo che per esempio in Calabria sono pochissimi i comuni che effettivamente svolgono ad esempio la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, che non sono sicuramente la soluzione ottimale, ma sarebbero già un primo passo per cercare di risolvere il problema. E invece, come tutta risposta, si continuano a costruire discariche indifferenziate, inceneritori e tante volte si pone a rischio la salute dei cittadini, forse per alcuni, solo per gli interessi di poche persone che appunto gestiscono questo traffico dei rifiuti. Ebbene, il 12 novembre si sarà a Crotone tutti quanti per dire basta al commissariamento sull'emergenza dei rifiuti e soprattutto si sarà in quella città perché, come vi dicevamo nei nostri passati appuntamenti, Crotone rappresenta una città simbolo della distruzione ambientale della nostra regione della Calabria. E infine vogliamo ricordarvi che il 12 sarà presente a Crotone un media center organizzato da Radio Transizione di Fase e da Indimedia Calabria. Quindi per chiunque volesse, perché ci sta appunto ascoltando nella giornata dell'11 di venerdì, potete manifestare tutta la vostra voglia di mediativizzarvi giungendo al stesso Media Camper, che appunto sarà sede operativa del Media Center. Oppure potete anche contattarci attraverso i nostri soliti canali di contatto, il modulo di Indimedia Calabria per contatti, per intenderci, o visitando anche la chat di transizione di fase se siete lontani da Crotone. E comunque vi ricordo di sintonizzarvi venerdì e sabato, scusate, sabato mattina, vi ricordo di sintonizzarvi sulle frequenze di transizione di fase, dove appunto avrete questa diretta che cercherà di raccontarvi tutto quello che succede a Crotone. Quindi probabilmente, anzi sicuramente, la replica di Indie Radio prevista per sabato 12 alle ore 12 non sarà trasmessa per dare appunto spazio a questa diretta. Ma ora ascoltiamo lo spot per ricordarvi in maniera sintetica quello che vi ho appena raccontato. ...12 novembre 2011, a Crotone, manifestazione per chiedere la fine del commissariamento dei rifiuti alla Regione Calabria. Il concentramento è alla discarica Farina Trappeto alle ore 10.30. Partecipa anche tu al corteo, oppure segui la diretta su www.transizionedifase.org. Per ulteriori informazioni, www.difendiamolacalabria.org. Vedessi come luccica la sua stella questa sera, è un'oasi nel deserto, proprio un sogno che si avvera. Io sto con te, m'amo un'altra che ha bisogno di me, perché non altro, nient'altro al di fuori di me. M'amo un'altra, io sto con te, m'amo un'altra, io sto con te. Cosenza con una militante del nodo universitario della rete difesa del territorio che ci farà un breve racconto rispetto a quello che è accaduto oggi nella giornata del 9 novembre, del 10 scusate. Dunque oggi è stata una intensissima giornata di sensibilizzazione in vista della manifestazione del 12 a Crotone contro che chiede la chiusura dell'ufficio per l'emergenza rifiuti in Calabria. siamo partiti trovandoci di fronte alla RAI di Cosenza, dove abbiamo fatto un piccolo sit-in proprio per cercare di attirare l'attenzione della RAI in modo che la cosa passasse comunque al TG regionale. E in effetti questa nostra richiesta è stata accolta, in quanto domani alle 2 nell'edizione del TG, appunto del TG3 regionale, ci verrà dato uno spazio per un'intervista a un nostro compagno che spiegherà tutte le ragioni e dunque inviterà a partecipare alla manifestazione. Quindi guardatevi il TG regionale domani alle 2. In seguito siamo saliti all'università, dove invece abbiamo cercato di attirare il più possibile l'attenzione degli studenti. Quindi abbiamo preferito invece di fare il solito volantinaggio e ci siamo mossi con un carrello pieno di sacchi della spazzatura che avevamo personalizzato. Ogni sacco della spazzatura era qualcuno, dalla Gelmini, anche se non c'entra con l'emergenza rifiuti, però insomma è sempre nell'ambito della spazzatura, a vari politici, a varie aziende che sul territorio gestiscono il ciclo dei rifiuti in modo alquanto criminale, allo stesso Melandri. Abbiamo buttato questi sacchi alla spazzatura nei luoghi che ritenevamo complici e colpevoli del degrado ambientale della nostra regione, dalle banche ai vari luoghi di potere, insomma, che ci sono nell'università. Abbiamo quindi cercato di... La gente, i ragazzi dell'università, come hanno risposto a questa vostra particolare iniziativa? Ah, si sono molto incuriositi, devo dire, ci guardavano da lontano, qualcuno rideva, qualcuno si avvicinava per capire che stava succedendo. Insomma, il risultato è stato che finanche qualcuno è venuto a chiederci il volantino invece di rifiutarlo quando glielo davamo, quindi posso dire che è stata un'iniziativa ben riuscita, perché appunto abbiamo incuriosito la persona a capire che cosa stava succedendo. Quindi l'appuntamento rimane per il 12 a Crotone. Sì, con partenza dalle pensiline dell'università alle 8:30. Se volete salire sul pullman potete passare o dalla P2 o dalla sede di Ateneo Controverso e insomma potete partire con noi. Ok, grazie. Indiradio continua a parlarvi ancora una volta del movimento studentesco. Infatti ricordiamo come a Londra la polizia è già in aspetto antisommossa e addirittura è fornita di proiettili gomma per da utilizzare eventualmente contro gli studenti che invece intendono protestare per un aumento nella retta universitaria. Questa è una notizia dell'Anda che è stata poi ripetuta su Indimedia Italia. Ebbene, vediamo quale sia lo scatto tra i vari paesi dell'Europa. Mentre a Londra si protesta in maniera anche molto forte rispetto ad un aumento della rete universitaria, qui in Italia si stenta molte volte a protestare e per questioni ben più gravi. Questa la dice lunga sul nostro stato sullo stato della nostra democrazia. Tuttavia dobbiamo ricordare quello che è accaduto in Cosenza l'8 novembre scorso. Infatti c'è stata una grande manifestazione studentesca, ancora un'altra grande manifestazione studentesca che ha visto una grande, larga e diffusa partecipazione tra gli studenti medi. E questi studenti hanno attraversato le strade della città e in particolare hanno cercato di interessarsi a diverse problematiche. Infatti si sono ritrovati anche in quello che è un luogo simbolo dei trasporti locali che in Calabria e a Cosenza versano in una grave situazione finanziaria. Infatti le ferrovie della Calabria trova ad avere grandi debiti e probabilmente si parla di licenziamenti da molto tempo. Infatti i lavoratori delle ferrovie calabrucane sono in stato di agitazione e quindi gli studenti sono rimasti più di un'ora in questo luogo, nella autostazione che si trova nel centro della città, per manifestare appunto la loro solidarietà ai lavoratori e per dimostrare la necessità, poiché molti studenti sono anche pendolari, di avere un servizio pubblico di trasporti decente. Dopo tutto ciò gli studenti si sono recati in corteo in varie strade della città e hanno manifestato la loro rabbia, la loro disapprovazione nei confronti di banche e di strumenti, diciamo, della finanza. E quindi dopo questo colorato e rumoroso corteo gli studenti si sono dati appuntamento per il 17 novembre, giorno nel quale è prevista un'ennesima grande manifestazione. In una loro nota gli studenti dicono e sostengono che hanno visto i loro genitori, i loro padri e le loro madri sfruttati fino all'osso dalle grandi lobby finanziarie. Ma tutto ciò non basta, scrivono gli studenti. Infatti ora queste stesse lobby non sono contente di aver fatto ciò ai loro genitori, ma ora stanno succhiando e stanno distruggendo il loro stesso futuro, il futuro cioè dei ragazzi, dei giovani studenti. E loro, gli studenti di Cosenza, si manifestano tutta la loro rabbia e non intendono, scrivono in questa nota, accettare passivamente questa negazione totale del loro futuro. Ma ora ascoltiamo una registrazione di un intervento dell'8 novembre durante appunto questa manifestazione cosentina. Spiega tutte queste responsabilità, perché i mercati, quelli che dovremmo ascoltare, hanno mandato una letterina e hanno detto che se l'economia deve ripartire bisogna fare alcune cose, ovvero bisogna che ci sia la libertà di licenziare, bisogna privatizzare i servizi pubblici, quindi l'acqua, bisogna trasformare i diritti in privilegi, perché il problema è che i mercati non sono un luogo libero dove i migliori si impongono, i mercati sono un luogo in cui c'è chi ha fatto i soldi e ha potere. Lui parlava del debito, ma sapete chi detiene il debito italiano? Ci sono 7 grandi investitori internazionali, mi manca il 5 che tiene il microfono, 7 grandi investitori internazionali che ogni giorno decidono quanto noi dobbiamo pagare del debito. Sapete come lo fanno? Questo, diciamo, è stato omesso dalla spiegazione precedente. Se oggi un governo, se esistesse un governo buono in Italia e decidesse di tassare le rendite finanziarie, domani questi banchieri inizierebbero a vendere il nostro debito, aumenterebbe il tasso di interesse e loro i soldi li recupererebbero dagli ospedali, dalle scuole, dai vostri diritti. Ma allora io mi chiedo una cosa, ma per quale motivo noi dobbiamo costantemente stare sotto il ricatto di 7 padroni internazionali che devono guadagnare sul diritto all'istruzione, sul diritto alla sanità? Ma perché dovremmo ascoltare i mercati? Il problema è che i mercati vogliono qualcosa che è incompatibile con la democrazia. Un presidente del governo che ha attuato le ricette dell'Unione Europea, dei mercati, che si chiama Papandreou, quando ha detto, ma io, dopo tutte le ricette che mi avete detto, che erano quelle giuste per far ripartire l'economia e la gente continua a morire di fame, io chiedo alla gente di dire se queste ricette sono giuste o no, chiedo di fare appello alla democrazia, di fare un referendum, per tutta risposta lui è stato mandato a casa, perché i mercati non vogliono la democrazia, perché i mercati costruiscono il loro funzionamento sul vostro futuro e sui vostri diritti. Ascoltare i mercati oggi vuol dire ascoltare dei poteri che noi non governiamo e che si fanno i soldi sulle nostre vite. Quello stesso giornale che prima diciamo è stato usato per capire come dobbiamo uscire dalla crisi, bisogna prenderlo e leggerlo. Bisognava prenderlo e leggere 2 o 3 anni fa, quando dicevano che la crisi non esisteva, che questo sistema era migliore, quando ci invitavano anche a votare Berlusconi. Adesso si accorgono che invece questo sistema non va bene. Ma lo faranno sempre, perché a loro non interessa. Quando questo sistema si inceppa, i soldi li rifanno sui idee, sui nostri diritti, sul nostro lavoro, con la precarietà, attraverso il taglio. Loro ci possono ricattare sempre con la scusa che i mercati devono governare. Allora noi diciamo una cosa semplice. Rispetto alla necessità di far ripartire i mercati, noi diciamo che è molto più importante garantire la democrazia, garantire i diritti, garantire il lavoro, garantire che tutti possano accedere all'acqua, come un referendum ha già detto. Ma chi l'ha detto che devono decidere i mercati? Ma chi l'ha detto che il debito costruito dalle banche, quando vendevano i derivati come pacchetti azionari ai pensionati, ai nostri nonni, senza dirgli il rischio, dopo 3 anni fa il nostro debito si è incrementato perché abbiamo ripagato le banche che avevano giocato in borsa. Invece di usare quei soldi per darli ai disoccupati, agli studenti, per rifinanziare l'università, l'hanno dato per rifinanziare le banche, che oggi attraverso il debito pubblico chiedono altre riforme. E fin quando siamo disposti a rinunciare, quanto gli dobbiamo dare, quante volte dovremo ascoltarli? Basta, chi li ha eletti? Democraticamente che connessione hanno con noi? E visto che i parlamenti, l'Unione Europea si rinchiudono e non ascoltano che i grandi finanzieri, i grandi banchieri, come abbiamo fatto noi oggi? Riempiamo di democrazia le piazze, i paesi, per dire che noi dei mercati non ce ne frega niente, noi ci interessa garantire il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla sanità, un lavoro dignitoso, ci interessa garantire come faremo e manifesteremo il 12 che questa terra non sia più avvelenata da speculatori, da politici e da chi riempie di veleno le nostre terre. Pensate che a Crotone, sempre per la voglia di profitto, per la necessità di profitto, quella che governa il mercato, hanno nascosto rifiuti tossici nei muri delle scuole superiori. Quindi rispetto a questo, ma noi che cosa dobbiamo accettare? Ma dobbiamo accettare questa entità metafisica che è il mercato? Noi riaffermiamo qui la volontà di non pagare questo debito che non abbiamo creato noi, perché noi vogliamo costruire una società che sia basata sui diritti, sulla dignità dell'uomo e non sui mercati, sull'Unione Europea e sul debito. Parliamo adesso di un film documentario di Michael Moore, Capitalism a Love Story. In questo film, in questo documentario o docufilm, come vogliamo chiamarlo, si delinea quella che è la vicenda del capitalismo americano. Certamente ci sono molti punti che in maniera stentata possono trovare d'accordo molti di noi, in particolare Michael Moore, per come è scritto appunto su questo articolo riportato da Indie Media Italia, cerca di salvare l'idea di capitalismo dei padri fondatori degli Stati Uniti. Comunque, il film rimane un momento interessante per riflettere sull'attuale condizione degli Stati Uniti. Infatti, questo film ha inizio con una rapina. E poi si effettua un paragone addirittura fra l'impero romano, che basava la sua potenza economica, come sappiamo, sullo sfruttamento, e questo sistema economico, questo impero, appunto, viene paragonato, come molti americani amano fare in realtà, all'attuale sistema degli Stati Uniti. E poi si parla di sfratti che diventano sempre più frequenti, ma ormai da molti anni, all'interno degli Stati Uniti. E poi viene effettuato un paragone tra quello che accadeva negli anni 50 e l'attuale situazione. Infatti negli anni 50 era molto semplice riuscire a vivere con un solo stipendio e vivere in maniera molto più che dignitosa, si riuscivano a fare molti viaggi, si riusciva ad avere molti beni, si riuscivano ad acquistare molti beni. E invece a un certo punto gli Stati Uniti hanno cominciato, soprattutto per quanto riguarda le classi sociali diciamo, operaie, hanno cominciato ad avere a vivere una grande crisi. E questo a partire probabilmente da Reagan, che ha distrutto, fondamentalmente ha attaccato i diritti di tutti gli abitanti degli Stati Uniti e ad esempio sono state abolite numerose tasse alle persone più ricche. E tasse che invece venivano prima utilizzate per costruire grandi infrastrutture, per favorire l'industria. Invece con Reagan appunto non è stato più così. E poi Michael Moore continua a delineare la vita di alcuni lavoratori, in particolare ci racconta la vita le vicende di molti piloti d'aereo che guadagnano veramente poco e che come sappiamo, come è noto, comunque effettuano orari di lavoro massacrante e comunque svolgono un lavoro decisamente pericoloso che richiede molta attenzione. Poi invece viene delineata la presenza di alcune cooperative di tassisti e alcune cooperative anche di panificatori. E in queste cooperative vivono e lavorano numerosi socialisti ed anarchici e questo potrebbe rappresentare, e queste cooperative in realtà rappresentano una valida alternativa a quella che è l'attuale crisi delle grandi industrie. E infatti, a Chicago ultimamente è stata occupata una fabbrica da alcuni operai che in realtà chiedevano non di continuare a lavorare, bensì di avere una liquidazione a seguito del loro licenziamento. E una cosa del genere, cioè una fabbrica occupata, non si verificava dal 1933, anno in cui Roosevelt appunto poi inviò la Guardia Nazionale e che sparò sui manifestanti. E invece attualmente si vedeva in Obama questo quasi distruttore della libertà, alcuni delatori lo individuavano come socialista, in realtà di socialista c'è una sola persona all'interno del Parlamento americano e Michael Moore ci viene a sottolineare che la presenza di questa persona avrebbe in un certo qual modo limitato i numeri di sfratti negli Stati Uniti. Complessivamente questo è un film interessante, di cui si consiglia appunto la visione e che certamente fa riflettere, poi ci sono anche altri spunti legati alla Chiesa Cattolica, sulla quale magari ci troviamo un po' meno d'accordo, e che comunque delineano questa vicenda della Chiesa Cattolica come lontana effettivamente dal capitalismo, ma in realtà il capitalismo stesso utilizzerebbe, secondo l'autore del docufilm, il messaggio, storpiandolo e adattandolo alle esigenze del capitalismo. Ricordiamo che in effetti negli Stati Uniti il cristianesimo in generale, in tutte le sue varianti, è anche molto diffuso e quindi storpiare, diciamo così, questo messaggio renderebbe più facile al capitalismo, addirittura convince anche le persone a contrarre dei mutui. impegnando le loro case, mutui con delle clausole assurde, ad esempio, e poco trasparenti. Per esempio, ci sono delle clausole in alcuni contratti che permettono alle banche di aumentare il tasso di interesse all'insaputa del cliente, e questo poi è alla base del uno dei motivi per i quali molte persone non riescono poi più a pagare questi tassi, e quindi vedono le loro case andare via, rimangono dunque senza casa e senza alcuna possibilità di avere nello Stato un sostegno. Questo dunque è quello che avviene negli Stati Uniti, un sistema che dunque si fonda sullo sfruttamento dei lavoratori per mandare avanti gli interessi dei grandi capitali. Certamente in Italia, questo lo diciamo noi, non viviamo queste identiche condizioni, ma certamente esiste un livello di sfruttamento favorito dalla diffusa precarizzazione del lavoro, che certamente favorisce non i cittadini italiani in toto, ma soltanto gli interessi di alcuni. Anche per quest'oggi Indie Radio finisce qui. Noi vi ricordiamo comunque alcune informazioni importanti. La prima è un'informazione di servizio che riguarda ancora una volta il funzionamento del sito Calabria Indie Media, un sito che a causa di innovazioni tecnologiche in alcune ore della giornata spesso risulta irraggiungibile. Non preoccupatevi comunque, perché stiamo lavorando per la risoluzione di questi problemi. La seconda informazione è quella relativa al 12, così come annunciavamo durante la trasmissione. Vi ricordo che domani, sabato 12, non ci sarà il previsto appuntamento con Indie Radio, la replica cioè di oggi, perché sarà presente sulle frequenze di Transizione di Fase la diretta da Crotone, la diretta realizzata proprio dal Media Center allestito da Transizione di Fase in collaborazione con Indie Media Calabria. Quindi l'appuntamento è per domani mattina, giorno 12, dove potete ascoltare la diretta da Crotone, dove si terrà la manifestazione regionale indetta dalla rete difesa del territorio Franconisticò, che intende dire basta al commissariamento per l'emergenza rifiuti in Calabria. Quindi vi aspettiamo domani, partecipate numerosi alla manifestazione, ascoltate e continuate ad ascoltare le frequenze di Transizione di Fase. Arrivederci a tutti.